Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Buon fine serata se invece ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Guardie o ladri, troverete numerosi articoli scritti in queste settimane. Sapete che la mia passione è la criminalità organizzata. Allora, passiamo alla puntata di oggi. Voi sapete che io non amo affrontare temi personali, perché ovviamente interessano soltanto coloro i quali ci scrivono. Non li affronto mai, a meno che non rappresentino in realtà una generalità più vasta di persone. Ed è proprio il caso che affrontiamo oggi. Casi di cui ci occupiamo noi, si occupano altre trasmissioni come ad esempio Striscia la Notizia, che ha mandato in onda diversi filmati sulle famose clonazioni delle carte bancoposta. E in realtà gli strascichi poi si, come dire, mantengono nel tempo fino a che non si risolvono, ma finché si risolvono purtroppo di tempo spesso ne passa parecchio, come è in grado di testimoniare il radioascoltatore che ci ha scritto una bella mail da Modena. E il nostro radioascoltatore si chiama Davide Cocchi. Buongiorno Cocchi. Buongiorno a tutti. Allora, lei ad un certo punto scrive di un lungo calvario per questa situazione, ed effettivamente a leggerlo tale è. Poi si è, spero, ma poi lo scopriremo, fortunatamente risolto o no. Intanto diciamo questo, si è risolto il caso, Cocchi? Sì, il caso si è risolto 2 giorni dopo che voi mi avete contattato. Ma guardi un po' che coincidenza. Spesso queste coincidenze ci capitano, ovviamente sono malizioso. Allora, può raccontare sinteticamente la storia che origina nel novembre 2007, allorché nell'ufficio postale di Modena 2 uno scanner clona anche la sua carta di credito. Prego Cocchi. Perfetto, allora io il 3 di dicembre ho ricevuto una lettera da Poste che conteneva una nuova carta bancoposta e mi diceva di recarmi al mio ufficio postale ad attivarla, al che io ero già proprietario di una carta bancoposta, mi sono chiesto cosa fosse accaduto. Il giorno successivo mi sono recato al mio ufficio postale e la responsabile, appena ha visto la lettera che mi è arrivata, ha intuito che cosa era accaduto. Praticamente 10 giorni prima, come ha detto lei, è stato clonato uno sportello postamata a Modena. Io ho prelevato da questo sportello e il mio postamat è stato praticamente clonato. Quindi loro, mi corregga se sbaglio, sapevano, lei invece non sapeva. No, io non sapevo niente ancora. Fantastico. E quindi che cosa accade quando arrivano gli estratti conto? Comunque, insomma, lei si fa un tabulato del suo conto corrente, che cosa scopre? Esatto, l'ho scoperto direttamente con la responsabile nell'ufficio. Abbiamo visto che il 24 di novembre io avevo prelevato a Modena e invece sì, erano stati fatti anche 2 prelevamenti a Milano a distanza di 3 minuti uno da quell'altro per un totale di 500 euro. Quindi 500 euro che si sono volatilizzati così come dei piccioni viaggiatori verso altri portafogli e altre tasche. Già mi sembra strano il fatto che l'ufficio postale sapesse e non avesse avvertito lei e chi come lei si è trovato in quella situazione. Ma comunque, diciamo così, chiudiamo un occhio, poi lo riapriamo con Bancoposta che abbiamo in linea. Però mi pare che la disavventura non finisca qui, cioè 500 euro sono andate perse, ma in realtà poi lei lì comincia un lungo percorso di contatti con Bancoposte, un percorso che porta a cosa? Dunque, allora porta come prima tappa praticamente al giugno di 2008, passati 6 mesi che loro mi avevano detto erano il limite per praticamente chiudere la pratica, causa. Certo. Esatto. E loro praticamente mi hanno detto contatti il numero verde, ma il numero verde mi ha detto no, se non abbiamo un numero di pratica di riferimento noi non possiamo fare niente. Quindi certo, sono tornato al mio ufficio postale, il mio direttore mi ha preparato tutto il materiale, ha rispedito di nuovo il materiale a Roma per sollecitare e mi ha fornito il numero di pratica. Da quel momento lì in poi sono iniziate le mie chiamate al call center di Poste. Contento? Contento, sì, ho trovato un sacco di persone gentili che erano molto vicine a me, che però potevano fare solo solleciti e notifiche. E certamente, e lei non ha parlato con nessun responsabile di Poste Italiane, quindi al di là del direttore del suo ufficio postale? Esatto, io mi sono trovato di fronte semplicemente alle persone del mio ufficio postale che hanno, non hanno potuto far altro che dirmi: noi qui ci blocchiamo e non sappiamo niente, la pratica viene gestita a Roma, e il call center che invece mi faceva notifiche e solleciti e basta. Bene. Io non ho trovato nessuno. Allora, io la interromperei qui perché la situazione è abbastanza chiara. Eravamo nel novembre 2007, faceva freddo, cappotti, siamo arrivati a giugno 2008, caldo, maglietta a maniche corte, e poi arriviamo addirittura al primavera 2009, quando magicamente, dopo una telefonata di Radio 24, ma casualmente ovviamente, la situazione si sblocca. Vediamo se la malizia la raccoglie Fulvia Vaudo, la dottoressa Vaudo, che è responsabile monetica e nuovi canali di BancoPosta. Buongiorno Vaudo. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, sono malizioso? Ma guardi, un pochino malizioso lo è stato, però ci tenevo intanto preliminarmente a scusarmi con il signor Davide Cocchi, perché effettivamente il protrarsi del tempo necessario per evadere la sua richiesta di rimborso effettivamente ha dei connotati molto elevati. Allora non sono malizioso io. Quello che però ci tenevamo a precisare, e questo lo faccio appunto senza nulla togliere all'assunzione di responsabilità appena fatta, ma solo per dare un quadro d'insieme alla vicenda. Prego. Che il periodo di riferimento, appunto quello invernale a cui lei si riferiva, ovvero al periodo di accadimento della frode, noi abbiamo avuto, così come altri istituti bancari, un notevole numero di aggressioni sulla rete degli sportelli automatici, sia ATM bancari che postali. Sì, questo qui è stato infatti documentato da moltissime cronache, sì, però mi scusi dottoressa Vaudo. Facevo questa premessa. No, ma è corretto, però questo qui, voglio dire, al cliente gliene può fregare meno, voglio dire, insomma, no? Lo immagino, e proseguivo nel ragionamento per dirle questo, che Poste Italiane, per far fronte a questo fenomeno, si è concentrata veramente con un grandissimo sforzo sull'attività di monitoraggio e di prevenzione. Quindi io volevo evidenziare una cosa anche per una corretta visione appunto della problematica. E noi ci siamo veramente concentrati sull'attività di prevenzione, che è stata operata essenzialmente su due fronti, no? Quella di individuare i punti di attacco, ovvero i terminali utilizzati dai frodatori per prelevare le somme, e i punti di compromissione delle carte, ossia quei terminali manomessi da frodatori per duplicare le carte. Ma come mai poi passano quasi 2 anni, insomma, per un risarcimento e per risolvere una pratica? Come mai non c'è un'informazione, perché abbiamo sentito da Cocchi che in realtà l'ufficio postale sapeva quello che era accaduto, ma il cliente invece non lo sapeva? Oggi sono mezzi anche rapidi per comunicare, ad esempio una mail, se non si vuol fare una telefonata. Ecco, come spiega questi ritardi? Guardi, io la ringrazio per la domanda, che mi consente di spiegare una cosa. Noi siamo stati tempestivi sicuramente nell'azione di prevenzione, come ricordava il signor Tocchi, perché noi abbiamo bloccato la carta impedendo ai truffatori di far sì che quella somma di 500 euro diventasse il doppio, visto che sul conto corrente del cliente c'era ancora disponibilità. Quello su cui purtroppo noi abbiamo peccato, e l'ho detto come assunzione iniziale di responsabilità, è stata proprio nella fase di comunicazione. Il caso del signor Tocchi, su questo spero insomma non sia in ampia compagnia, nel senso che è un caso comunque veramente limite, lo diceva lei, un po' l'eccezionalità del caso, ha fatto sì che purtroppo dei problemi di comunicazione interna, per cui l'apertura di segnalazioni presso l'ufficio postale e in taluni casi del contact center siano pervenuti alla struttura centrale che gestisce il back office amministrativo in ritardo. Nel caso specifico, la pratica del signor Tocchi era stata ripresa sulla base di un contatto telefonico che il signor Tocchi ha avuto a fine dicembre, e ha consentito di verificare che la pratica stessa si era interrotta per un'anomalia nella documentazione presentata. Io vorrei chiederle questo a questo punto, dottoressa Vaudo, al di là del fatto che vorrei precisare che io non ho detto che si tratta di un'eccezione, me lo auguro, ma questo qui giustamente devono dirlo le Poste e deve dirlo lei, quindi speriamo che sia effettivamente così, ma non le sembra che la vecchia risposta che una volta si dava il dottore fuori stanza oggi sia stata sostituita con noi non possiamo farci nulla, l'ufficio competente è a... e Roma, Milano, Genova, insomma, dovunque esso oggi sia, non le pare che si sia perso un po' il contatto fra cliente e istituzione? No, guardi, mi sento di dire che forse il caso del signor Tocchi può essere una testimonianza forse di questa, ma mi sento che è un'eccezione rispetto alla regola. Noi abbiamo circa 10 milioni di titolari di carte e ovviamente su questi 10 milioni di titolari di carte facciamo un'attività di prevenzione che è costante e capillare, e se tra questi casi può essere capitato, e di questo veramente ce ne scusiamo, l'abbiamo fatto preventivamente. Sì, certo. Questo assicura che, insomma, la volontà di porre sempre particolare attenzione e maggiore attenzione alle problematiche dei clienti. Benissimo. Dottore Savaudo, grazie per il suo intervento, l'avremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi nuovamente ospite per altri casi. Grazie al dottor Cocchi, in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.